Allora, dove sta la superiorità della spiegazione di Newton rispetto a quella di Aristotele? Sta nel fatto che Aristotele non si preoccupa di dare una descrizione quantitativamente specificata. Cioè, la teoria di Aristotele non mi permette di prevedere esattamente quale sarà la posizione e la velocità di un corpo lasciato cadere da una certa altezza H rispetto al livello del suolo, dopo un secondo dove sarà, dopo due secondi dove sarà, dopo tre secondi dove sarà e quale velocità ci avrà. La teoria di Newton invece, prima ancora quella di Galileo, perché Galileo che prima di Newton risolve questa, diciamo, questione, invece consente di dire questo. Allora, Newton scopre, Newton spiega che gli spazi, Galileo spiega che gli spazi percorsi sono proporzionali ai quadrati dei tempi, e con una formuletta del cazzo come questa dice: bene, al tempo t io so esattamente quanto spazio ha percorso il mio corpo. Con la teoria di Aristotele questa cosa non si può fare. Poi arriva Newton e dice: no, sì, ok, questo che ha detto Galileo va bene, ma sotto sotto c'è un'altra spiegazione. La vera spiegazione è che c'è qualcosa chiamato forza. Attenzione, il concetto di forza è, ripeto, altrettanto metafisico in Newton di quanto non sia in Aristotele. Non è affatto vero che la fisica moderna ha sconfitto la metafisica. Col cazzo. Si basa, continua a basarsi su concetti inverificabili e non verificati, esattamente come ogni pensiero metafisico. Però, che cosa fa? Mi dice: se io ho due masse, m con 1 e m con 2, e queste due masse hanno i centri di gravità che distano r, io posso calcolare esattamente la forza che ognuna di queste due masse esercita sull'altra. E questa forza, dice Newton, è uguale al prodotto delle due masse diviso il quadrato della loro distanza moltiplicato per un certo coefficiente k, che a priori non so che cosa sia, ma che prima o poi mi troverò. E quindi mi dà una bella formulina con la quale io posso calcolare il valore di questa forza, e poi dalla relazione fondamentale F uguale m per a, la forza è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione. Se conosco la forza posso calcolare l'accelerazione, che nel caso dei gravi, cioè della forza di gravità, è g, cioè all'incirca 9,8 e qualcosa metri al secondo quadrato, e io posso dare una descrizione quantitativa precisissima del moto di sto cazzo di sasso che cade dalla torre di Pisa, che non c'è mai caduto, naturalmente, perché Galileo non ha mai fatto gli esperimenti che nei libri di fisica vi dicono che ha fatto, perché era un genio, quindi poteva farne a meno, e li ha solo pensati con tutti gli esperimenti mentali, compresi quelli che descrive nel dialogo dei massimi sistemi. E quindi io posso sapere, posso fare delle previsioni, posso dare delle descrizioni quantitative dei fenomeni naturali. Chiara l'idea? In realtà dietro a questa superficie, la profondità è sempre una truffa, non esiste nessuna profondità, le cose più interessanti stanno sulla superficie, profondità, sono le palle che si è inventato il pensiero romantico e ce le ha trasmesse al Novecento. Allora,